9. Quella mattina parecchi gerarchi si svegliarono di malumore. Muk, gerarca dei preti pazzi, aveva di nuovo fatto un sogno erotico e aveva bagnato il letto, il soffitto e le guardie del corpo. Badaloni, gerarca dei manageri di Dio, era stato avvisato che il Praihin, sull'autostrada, la prima turbochiesa, era stato distrutto in una rissa tra i fedeli che parcheggiavano per la messa. D'Antoine, gerarca dei vecchi rampanti, si era svegliato col lifting esploso e non aveva neanche i pezzi numerati. Enea, leader dei giovani rampanti, per tutta la notte aveva chiesto la mano di Aldobrandina, figlia del re della Bachelite, e dopo averla ottenuta aveva appreso che le azioni della Bachelite erano scese di 3,4 punti, mentre erano salite del 7,6 quelle della sua ex fidanzata, Olga, figlia del re dei pomodori. Bazzuro, leader dei buffoni di regime, aveva saputo che la sua audience televisiva era scesa a 80 e aveva avuto un rialzo di pressione a 2,20, e quando era poi venuto a conoscenza che il compenso del suo rivale, Crapulo, era stato aumentato a 240, aveva avuto un crollo di pressione a 30 e gli erano state ordinate 100 gocce di coramina, 10 giorni di riposo e 300 milioni di penale. Birone, leader dei moralisti rimborsati, era stato alzato tutta notte per scrivere una stroncatura del libro di un giovane scrittore, accorgendosi solo alla fine di aver scritto lui la prefazione. Bucci, leader degli intellettuali sublimi, aveva visto bocciati tutti e tre i suoi slogan per una marca di fusilli. Andreopoulos, il gerarca dei killer professionisti, aveva passato tutta la notte alla finestra, cercando di sparare i travestiti, ma non ne aveva beccato nessuno. Ma era soprattutto Enoch, il gran gerarca degli industriali, ad aver passato una notte infame nel suo bunker al 100° piano dell'Hotel Royal Enoch. Alle 3 gli era arrivata la notizia che due sue petroliere si erano scontrate. Erano già 10 in un solo mese. Lo facevano apposta? Esiste forse una stagione degli amori in cui le petroliere si accoppiano? In preda a questi dubbi, insonne e agitato, aveva per sbaglio fatto scattare il segnale d'allarme nel bagno. 4 guardie del corpo erano piombate dentro ed, essendo il bagno rivestito di specchi, si erano sparate addosso. Alle 4 gli era giunta la notizia che il centravanti della sua squadra di calcio, il celebre Carbenou, si era rotto una tibia giocando a strega in alto con i compagni. Allora guardò la TV e i programmi non gli piacquero. C'erano smagliature nel palinsesto, qua e là si coglievano sfiducia e tetraggine, noia e persino orrore, sofferenza. Nella pausa di un cantante, nella mezza frase di un intervistato, nell'occhiata di un giornalista. Dov'era l'euforia del terzo paese più ricco del mondo? Sabotaggi? Sazietà? Virus? Si fece passare subito al telefono il compositore capo Baldini. Ma Baldini non rispose. Rispose Mazza, capo della sicurezza interna. «Dunque ha già saputo?» disse Mazza. «Saputo cosa?» «Il compositore capo Baldini. È stato trovato morto un'ora fa davanti al suo monitor. Sospettiamo un attentato. L'arma? Una bomba o un coltellino svizzero multiusi. Dobbiamo sostituirlo subito», disse Nock. «Non possiamo lasciare scoperto quel settore un solo momento. Che ne dice di Atarva?» «Con tutto il rispetto, non sono d'accordo». «Perché?» «Per il suo passato. Il passato, come lei sa, è come certi torturati. Duro a morire».